pensé que esta situación es un velorio triste y viene dentro un chuquetón. La sidia en voy a esconderse del culo de la vaca de la vergogna, ¿eh? Y te cuida yo. Él viene avanti. Arramengo yo. Él viene. Él fijaba la viuva porque mal intencionada, ¿no? Bla. E di quella viene via uno che era sentato a banda della viuva e lui mola il culo, si senta. E di quella il guardava e la viuva in cima del morto passava le mani, dice: puareto, è morto che neanche un passerino. La della scianta, puareto, caro, è morto che neanche un passerin. E giù, allora sì, la guardata meglio, con la storia del passerin. Di quella viene un che non sapeva di niente, che era motorista dei parenti che se venisti all'interno del morto, che non sapeva di niente, arrivare a banda del ciucco che dice: e lo morto di che? E lui: ah! E lo morto di che? Sicuro non sono mia, ma se non si sta impanturata di farina si sta sfiondata del culo. Ma tutto se silenzio e acontece tutto col ciucco, tutti che aveva vergogna del ciucco. Là della scianta viene dentro il prete. Quando viene il prete del velorio, lo savino, le prediche e se finisce e e carga sul morto e via. Quando il prete arriva a Rento, che comincia a dire sulle prediche, la vecchia la gas comincia: puareto, adesso sì, e te menerà da un posto oscuro, senza luce, senza acqua, freddo. E il ciuco salta fuori: vuoi vedere chi mi omena la casa?